Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Stormo Rock. E come è successo anche per Natale, siamo in onda anche per Pasqua, perché per Natale eravamo in onda a fare lo speciale natalizio con tutti i vari pezzi punk rock, alternative rock, metal, quello che potesse essere in chiave punk rock. Qua non ci sono mai stati pezzi in riferimento alla Pasqua, però buona Pasqua a tutti. Questa è la terza intervista di fila che facciamo, quindi sono carichissimo che così riusciamo a mantenere più o meno il range di quando escono gli album, e in modo da poter intervistare gli artisti, comunque le band, più o meno a ridosso dell'uscita, anche se questa uscita è di fine febbraio, però ci siamo riusciti a mettere d'accordo lo stesso per questa giornata. Qualcuno saprà già sicuramente chi abbiamo qua in intervista. C'è stato un piccolo cambio all'ultimo minuto, ma nulla di preoccupante. E qui con me in studio, anche perché è gran bazza, pensavo fosse uno sbattimento incredibile, in realtà ho scoperto che hanno dei parenti qui vicino, ci sono gli Splintera. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Bene, dai, grazie, tutto a posto. Spero anche al di là del vetro. Sì, dai, alla fine bene. Infatti l'unica cosa mi fa piacere, come dicevo prima, che quando siete arrivati, che pensavo vi foste fatti uno sbattimento incredibile da venire da Verona, e in realtà giustamente avete dei parenti qua con il bolognese, quindi è molto più facile. Volevamo farti uno scherzo, ma poi alla fine no. Mi hai detto la verità. Sì, ti ho detto la verità, non ce l'abbiamo fatta. No, vabbè, dai, alla fine va bene lo stesso. 333-180-94-94, se avete qualche domanda da poterci fare, qualche saluto in generale, solo su WhatsApp, perché ho visto che è stato cancellato tutto il resto. Quindi WhatsApp è la messaggistica che abbiamo ufficiale, e solo questa, per evitare che uno lo mandi da una parte e uno lo mandi dall'altra. Quindi abbiamo solo WhatsApp, ripeto, 333-180-94-94. Lo dico anche per lo streaming, anche se chi è fuori Bologna sicuramente avrà visto un po' le storie sia di Splintera e la nostra, e anche della radio, che si può ascoltare la radio anche in streaming su radiocittafugico.it e ascoltando la diretta. Perché sono qua di Splintera? Perché sono usciti con il secondo disco che ho qua tra le mani, infatti vi ringrazio tantissimo per avermelo portato. These are All Our Favorite Songs, un album che ci hanno messo, parlando prima ovviamente, ci hanno messo tanto per farlo, un anno e mezzo più o meno. E anche per scrivere il titolo. Anche è una prova di inglese. Sì, perché questo scioglie lingua. Are All Our non è facile. Infatti, però adesso ovviamente è per questo che sono qua, come dicevo prima, che è uscito a fine febbraio. E bello, come dicevo prima, me lo sono ascoltato qualche giorno fa e ho anche riferito a loro il mio responso. Bello, bello carico, bello, si vede che ci avete messo anima e cuore per farlo. Sì, esatto. E quindi complimentoni. Grazie mille. Grazie. Ma prima di iniziare l'intervista, niente di preoccupante, c'è una domanda di rito che faccio a chiunque, ovviamente da quando c'è stata questa notizia, che il prossimo anno tecnicamente si dovrebbero sciogliere i NoFX. Quindi per cosa sono per voi i NoFX, brevemente, senza stare a dilungarsi perché ce ne sarebbe tantissimo da parlare, però un po' brevemente per cosa sono per voi i NoFX? Beh, innanzitutto una fonte di ispirazione su tante cose, quelle migliori, perché ne hanno fatte tante e tante da non prendere esempio. Esatto, magari. Quelle magari no. Però sì, direi, da parte mia, secondo me è un po' la spensieratezza, perché loro hanno scritto tanta bella musica, tanta musica un po' discutibile, e però l'hanno fatto proprio con spensieratezza, quindi secondo me, cioè per me almeno, loro sono stati una fonte da questo punto di vista, nel senso, scriviamo le cose come ci vengono e poi piaccia o non piaccia, però l'importante è che sia fatta così, in tranquillità. Giusto. Io sinceramente i NoFX non li ho mai ascoltati poi così tanto, perché hanno fatto comunque dei pezzi o comunque qualche album che mi piaceva, altri invece diciamo, perché era, cioè, un tipo di punk tanto grezzo per i miei gusti, diciamo. E poi tu, venendo da un altro genere, esatto, diciamo, io principalmente arrivo un po' più dal metalcore, diciamo, ok, e cioè ascolto un po' di tutto, però principalmente sono più da quella scuola lì, e sentire un punk così tanto grezzo a volte mi si storgeva un po' il naso, E però niente da dire, perché comunque hanno fatto una parte grossa di storia e c'è molto da imparare anche da loro sicuramente. Benissimo, guarda, ti do ragione per questo, perché io il primo disco che ho ascoltato di NoFX fu Libra Animation, e per un ragazzino di 14-15 anni dici: oddio, perché tutti usano NoFX con questo album che fa schifo obiettivamente. Sì. Però poi fortunatamente ho ascoltato Punk in Drabble, che allora ho detto: ah, allora esatto, ho capito. Intanto questi erano Andrea alla chitarra e Daniele alla batteria, e sempre degli Splinter. Dato che ne stavamo già parlando un attimo, un attimo qui con i ragazzi prima, avete già delle date, qualche cosa, quindi la diciamo già, che così facciamo pubblicità anche su quello. Dimmi pure, io so già perché ve l'ho chiesto adesso, però ripetilo pure tranquillamente. No, infatti, allora, adesso tra l'altro notizia anche fresca arrivata qualche giorno fa, giusto? Qualche giorno, sì. Beh, allora dai, lascio a te l'onore di presentare. Beh, allora, sì, abbiamo la possibilità appunto di aprire ai No Fun At All il 17 di maggio a Milano. Al Bloom, okay, perché quello non me lo ricordavo. E sì, che è una notizia uscita proprio da due giorni, quindi fresca. Anche questo grande onore, comunque, perché band storica, anche questa del punk rock, quindi chissà sa, esatto. E sì, non avremo l'opportunità di fare entrambe le date, ma solo quella del Bloom, quindi lasciamo il posto a chi sarà, che adesso non so neanche chi apre Alvidia. Alvidia ho visto che sono i Wolfpack. Sì, quelli fanno anche con il noi tour, allora, fanno il tour con loro. L'altra non è ancora saltata fuori, mi pare. Ah, ok, vabbè, vedremo e lasceremo loro il compito. Esatto. Okay. E poi invece da maggio passiamo direttamente a giugno, al momento abbiamo il 17 di giugno, che è un festival, diciamo, nelle prime colline veronesi, che organizzano ogni anno. E con band della zona di un po' tutti i generi, giusto per richiamare un po' qualsiasi tipo di pubblico. E l'ultima invece è un festival, sì, il 24 di giugno, che facciamo a Birreria Braunstuber, che è sempre nel est veronese. Esatto, est veronese, e con insieme ai Not For Rent da Caorle e ai Dustin Figueroa, che sono una nuova band sempre di Verona, che viene, esatto, a più o meno darci una mano quelle zone lì. Ecco, al momento siamo fermi a queste tre date qui, sperando che ovviamente poi ne saltino fuori delle altre con l'estivo, perché poi tra festival grossi, piccoli, medi, insomma, c'è anche poco posto per le date singole durante l'estate, come sai, insomma. Ah no, beh, certo. Quindi bombissima per il No Fun At All, ovviamente andatevi a vedere anche nelle altre date, e non dimenticandosi però che avete suonato anche in apertura gli Ignite a Ferrara e gli Zebre da Milano. Esatto. Okay. Altre occasioni d'oro, diciamo, perché a parte conoscere di persona veramente delle persone stupende, oltre alla buona, tecnicamente molto... vabbè, anche lì sono storia, perché sono band che abbiamo cominciato a seguire parecchi anni fa, almeno parlo per me, magari non per te un po' meno, un po' di anni dopo, però sì, dai. Però è stato bellissimo a livello ovviamente musicale, ma anche proprio a livello umano. Abbiamo trovato delle persone super umili e ci hanno dato da imparare. Veramente. Bene, sì, ci sta anche un bellissimo. Po' come gestirsi un attimo sul palco e quant'altro, c'è da imparare da chi lo fa da più tanto, sì, da tanto tempo, anche se il vostro approccio al palco, quando vi ho visto con gli Ignite, è stato molto buono, quindi mi siete piaciuti veramente, grazie. Veramente tanto dal live. Ma passiamo effettivamente anche un po' all'album, perché quindi allora so già a chi dare colpa, passami il termine, per i breakdown che sono in mezzo a qualche pezzo. Esatto, beh, non tutti, a dire la verità, perché non tutti sono merito mio, però la maggior parte, diciamo che c'era la mia influenza dentro. Infatti sentito un po'. Sì, detto punk rock, hardcore melodico, punk hardcore, però ogni tanto c'è anche qualche smetallata di mezzo, che sì, a me fa piacere, perché anche io ogni tanto, anzi molto spesso, ascolto metalcore e quant'altro, quindi anche se i miei ci sono punk rock, però mi sono evoluto anche in questo genere, quindi mi fa piacere quando ci sono. Cos'è qualche purista che ogni tanto dice: ah cazzo, hanno messo di mezzo un breakdown ma hanno rovinato il pezzo. Ma perché deve essere un pezzo rovinato se c'è un breakdown? Esatto. Anche perché così si dà la possibilità comunque a tutti quanti di portare un po' del suo all'interno dei brani. Esatto, sì. Esatto. E quindi vi piace il risultato complesso, dato che ci avete messo anche più di un anno per tirare fuori tutto? No, siamo molto contenti di come è uscita. Come hai detto tu, ci abbiamo lavorato tanto. E quando ascolti il tuo prodotto alla fine, tu da musicista che l'hai fatto, dici sempre sì, sarebbe potuto fare quel che in più. Però comunque è molto bello. Cioè, dopo siamo andati a registrare da Spazza dei The Rozer, tra l'altro. Ok. E che anche lui ci ha dato una grossa mano a livello di esperienza, giustamente. Però sì, devo dire, almeno da parte mia, piace molto. Bene. Sì, poi aggiungo il fatto che era il mio primo disco che ho registrato in vita. Ho sempre registrato o EP o poche canzoni. Questo qua è il mio primo disco effettivo registrato completo, quindi avevo l'emozione a mille la prima volta, cioè quando mi è arrivato in mano, ho detto ricordo ancora quando è arrivato a casa nostra lo scatolone con tutti i dischi, che lui mi fa: beh, a te l'onore, apri. Aprilo tu. Bellissimo, preso, aperto, che bello. Sì, perché nel primo disco degli Splintera c'era ancora il primo batterista, che è uscito poco dopo, quindi lui è entrato con un disco già pronto. Esatto. Questo è il suo primo ufficiale che ha scritto e registrato. Bella, mi fa piacere, bravissimi. Comunque, ragazzi, ve lo ridico, hai citato brevemente i The Rozer, sì, con il discorso là, quindi mi collego da abile intervistatore. Bravissimo. Al primo pezzo degli Splintera con Skate, dove c'è Sebi in featuring, che sì, esatto, mi aspettavo sinceramente fosse un pezzo tutto in italiano. Poi ho letto di volate, ho detto Sebi in featuring, vedrai che sarà il pezzo in italiano. In realtà, e invece no. Sentire Sebi che parla canta in inglese fa diverso, però bella. Anche lì immagino col discorso che avete registrato da loro avete chiesto se poi si riusciva a mettere. Sì, guarda, ti dico la verità, sembra che dica una cosa perché è uscita da lui la cosa. Cioè, eravamo in negozio da lui, perché ha un negozio di skate, mm-hmm, e comunque abbigliamento, e tra una cosa e un'altra fa: ma ragazzi, se volete facciamo un pezzo insieme. Noi avevamo Fatalità, il disco pronto, quasi pronto comunque a livello di preproduzione, e niente, abbiamo detto: beh, cogliamo l'occasione al volo, ovviamente. Una volta, fantastico, che ci viene una proposta così, beh, sì, è giusto approfittarne. Tra una cosa e l'altra siamo riusciti a fare. La scelta dell'inglese è stata un po' più che altro verso il significato della canzone rispetto a quello che fa di solito Sebi. Quindi siamo stati un po' combattuti, appunto, se farlo in italiano, se tenere in inglese, fare metà e metà. Ma poi, insomma, il risultato credo che sia buono. Tra tutto, ottimo risultato. These are all favorite songs, più o meno ce l'ho perché ce l'ho scritto, però anche leggerlo non è facile. Adesso vediamo se riesco a dirlo bene. These are all our favorite songs. Esatto. Un titolo che è nato un po' a caso, ma me lo spiegherete meglio voi, anche se io so già perché me l'avete anticipato. Sì, no, mi ricordo infatti la prova, eravamo in sala prove e con la scaletta delle canzoni ancora in preproduzione, quindi non registrate nulla, e cronologicamente passavamo da una canzone all'altra, e ogni volta finita una canzone uno di noi diceva: caspita, per non dire parole in francese. vai tranquillo, dai. Ma cazzo, questa qua è la mia preferita del disco, e la facevamo. Poi passava quella dopo, un altro della band diceva la stessa cosa: ah, questa è la mia preferita invece, e invece questa è la mia preferita. E quindi andare avanti così, ragazzi, ma perché non le chiamiamo così, non chiamiamo così il disco, cioè queste sono tutte le nostre canzoni preferite, e così è uscito il titolo. E così, esatto, scoprendo dopo che anche uno scioglie lingua in inglese, esatto, perché non è facile ripeterlo, però sono belle queste cose che saltano fuori un po' alla buona. Anche questo richiamo agli anni 90, diciamo, perché questa cassetta che c'è in copertina, sì, esatto, direi che si capisce da dove prendete spunto, come dicevamo prima, bene o male. Bad Religion, FX, Pennywise, Offspring, sì, News for a Name, tutto quello che è anni 90, primi 2000 forse, ma più magari sì, fine anni 90, sì, più quello. E infatti la cassetta, cioè la copertina, riporta un po' alle compilation, le vecchie compilation che ci registravamo con tutte le nostre canzoni, quindi significato doppio, diciamo, sia per noi singolarmente che per appunto la compilation in sé delle nostre canzoni preferite. Esatto, esatto, ci sta. Siamo un po' nostalgici in questo momento, in questo momento, perché poi la cosa triste era quando ascoltavi il pezzo nel Walkman e sentivi piano piano che dici e dire che questa canzone va, mi va un pochino più lenta rispetto al solito, esatto. Ed erano le batterie che piano piano ti stavano abbandonando, sì. E per non sprecarle matita e si riavvolgeva così il nastro. Esatto. Ah, bei tempi, bei tempi. Vecchi tempi. Beh, siamo un po' retro barra vecchi, ma chi se ne frega. Erano, sì. ci si divertiva con poco meno pugnetti di quelle che ci sono adesso, esatto. Molto sinceramente. Una decina di minuti prima della fine della prima parte del di Le Storm Rock. Mi sono inventato un altro scioglilingua in italiano senza. Senza volerlo, la volta scorsa che c'era Silasisco qui collegato con me tramite il telefono, perché giustamente non ha avuto la botta di culo come voi di essere già da queste parti, era per il discorso di Anthem for Tony, esatto, che era il singolo che era uscito in quell'occasione, ma non è finito qui perché c'era solo Presina stavolta. Non me l'aspettavo. Sì, per veri intenditori, appunto, restando ai dischi fatti e composti negli anni 90 come degli Offspring, come tu sai bene, alla fine, lo diciamo o non lo dici? Dai, lo diciamo. Sì, ormai è capibile, però diamo la conferma. Se chi noterà, c'è una traccia che dura più di 10 minuti, perché dopo un minuto e 15, parte la versione acustica di Anthem for Tony. E anche quella registrata così in studio, ho detto sì, vediamo come viene fuori in acustico, ho provato a mettere giù due chitarre, due cembali, shakerino e cose varie, e il risultato è sempre quello. Quindi anche lì ottimo risultato, mi fa piacere sentire anche le versioni acustiche soprattutto di brani che magari hanno la carica da originali in elettrico, mm-hmm. E poi però con un testo alla fine che è molto molto toccante per noi alla fine, perché sì. Siamo tutti fan bene o male di No Use for a Name, e quindi risentire questo brano in acustico dà giusta giustizia a quello che volevate dire, non che il pezzo sia brutto, sì, anzi sì, è bellissimo il pezzo, però ci sta anche molto. Rende un po' più struggente la cosa. Esatto, bravo, era molto più triste la questione, però il senso alla fine è questo. Mm-hmm. Tu Daniele, essendo entrato con band già meno male formata, anche tu Andre, sì. Però sei un po' più veterano rispetto a lui, sì, mi esatto. Sembra, no? Come anche penso che tu sia il più piccolino, penso, dell'interno sì, della band. Sono il più piccolino. Non ti bullizzano, vero? Spero di no. No, dai, finora no. No, di solito viene bullizzato il più piccolo, ma in altezza. Esatto. Ah, quindi Sisco? Quindi Sisco. No! Esatto. Che dovrebbe quello essere... preso di mira da tutti quanti. Che dovrebbe essere il frontman, quello figo, sborone, invece quello bullizzato. No, vabbè, dai, simpaticissimo. Salutiamo Sisco, si ascolterà poi la... il podcast che comunque in settimana verrà fatto. È rimasto qualcosa fuori dal disco che avete, che dici ok, questa valutiamo, la sistemiamo più avanti? Allora, noi quando scriviamo una vagonata di cose, quindi in realtà potrei dirti sì e no, perché comunque nel momento in cui scriviamo per un disco sappiamo già poi quali canzoni mettere giù, perché noi al momento abbiamo un'ulteriore cartella con altre 30 canzoni, vi dico, già comunque avviate, alcune già fatte, alcune no, e poi altre tra che quelle, magari non toccheremo mai, esatto, cioè come tutte le band, tutto dentro, okay. Hai una fucina sempre in continuo aggiornamento, e poi ok, c'è un disco da fare, prendi, questa qua secondo me ci sta, poi dipende che direzione vuoi dare al disco, se ne vuoi dare una, se vuoi fare una cosa un po' più di pancia, però in questo caso ti direi di no, cioè non è rimasto fuori nulla, ok, cioè, c'è tutto quello che doveva esserci nel disco, e quindi mi sento di dire di no. No, infatti, cioè l'unica cosa che abbiamo diciamo aggiunto è stata appunto Anthem, sì, ecco, ne abbiamo aggiunte. Sì, okay, esatto. Era stata fatta per sì, sentiamo come viene fuori, dopo quando il disco era quasi completo abbiamo detto beh, ma sai che magari forse se ce la mettiamo alla fine, che è venuta talmente bene che è un peccato non usarla. Esatto. No, infatti quindi... avete fatto strabene. Seconda parte delle Stolmore Rock, siamo sempre collegati, l'abitudine di dire collegati perché solitamente ce li ho tramite telefono, ma sono qui fisicamente con me, con gli Splintera, Daniele e Andrea, rispettivamente batteria prima e chitarra poi. Quindi continuiamo, 333-180-94-94 se avete qualche messaggio da poter dire, oppure scrivete ai nostri numeri, bene o male qualcuno ci conosce in generale, e se avete qualche minchiata da dirci, perché tanto no, non fa mai male. E cosa dire, stavamo parlando anche un po' di metalcore, perché dato che comunque eravamo un attimo buttati su tramite Daniele alla fine sostanzialmente, sì, diamo la colpa a te alla fine, dai. Ecco. Giusto per indicare qualcuno. Che si parlava anche un po' del discorso degli Hatebreed, che probabilmente hanno dato un po' vita a tutto quello che è poi il metalcore adesso, tipo Parkway Drive, Asking Alexandria, oppure chi con quant'altro. Quindi ci può anche stare. Era il Flame Fest quello che dicevi prima, perché secondo beh, con i Bullet for My Valentine anche no? No, mi sfuggono adesso gli altri. Ok. So che gli Hatebreed erano headliner. Ok. No, non mi vengono in mente. No. Magari mi vengono in mente a metà tra un discorso e l'altro, sicuramente. Esatto. Vabbè, se fuori un nome a caso così. Sappiamo a come ricondurlo. Esatto. No, va benissimo. E allora anticipo per parlare del nuovo del disco, sempre che non ripeterò il nome perché faccio una figura barbina, di Another Bayfest Night. Sì. Che immagino, ovviamente già Bayfest direi che è inerente al festival che si terrà esattamente ad agosto. Esatto, sì. Quindi era una notte brava del Bayfest, di cosa ci parla questa notte? Allora, più che notte brava è stato proprio un insieme di cose che è nato da quei tre giorni all'epoca, perché non erano ancora quattro, erano tre, nel 2019. Infatti è descritto comunque nel testo della canzone, sono descritte vari aneddoti, diciamo, che ci hanno portato a quello che siamo oggi, sia come band sia come persone, perché lì si è creato un po' il legame che adesso diciamo è all'interno degli Splintera. Quindi il metodo in cui, non so, interagiamo tra di noi, il capirci senza parlare, cioè si è proprio legato c'è stato un legame, insomma è nato un legame all'interno di quei giorni lì. E poi sì, musicalmente invece a livello personale, almeno mio personale, io ho conosciuto la mia attuale ragazza. Ah, ok. Quindi, bella, è andata anche fatta meglio rispetto agli altri. Quindi diciamo che è stata un'estate un po' di cambiamenti, tutti positivi, devo dire, che ci ha portato a chi siamo ora. È stato l'inizio di una scalinata ancora molto lunga, che però ci ha portato solo cose positive. No. Bene, fa piacere, infatti. E da, come dicevo prima, ogni tanto ho l'abilità dell'intervistatore, mi collego un'altra cosa riguardante a qualche festival antecedente di quasi 20 anni fa, perché tanti anni fa, come voi avete parlato del Bayfest, c'era questa band di Castelmaggiore, probabilmente sconosciutissima, conosco probabilmente io e pochi altri perché io abito a Castelmaggiore, si chiamavano Idea Fissa perché non so se esistono ancora, e fecero una canzone riguardante l'Independent Day. Ah, sì. Quello delle vecchie glorie, qua si va indietro di tanti anni, quindi quando vi ho chiesto l'età era per quello, ho detto chissà se sono riusciti a beccare almeno qualcosa di Independent Day, di quell'atmosfera, gli ultimissimi. Io no. Quindi, infatti dico giovanissimi, ma fino a un certo punto, perché uno 29 l'altro 34, quindi diciamo forse di sì. Ancora il Parco Nord, giusto? Allora, quando era ancora il Parco Nord, perché infatti da lì la mia domanda era quale festival preferite a riguardante Bayfest, e non tanto di line up, perché la line up che c'è adesso ovviamente è più corposa rispetto a quella che c'era un tempo, che era solo una giornata, un palco solo, andavi dritto per dritto, e quello che c'era, esatto, c'era. Sì. Però l'atmosfera era nettamente diversa, era molto più libera la questione su tutto. Infatti è quello proprio, ti avrei risposto proprio così. Ah, ok, scusa, ho già spoilerato. No, però spoilerato la domanda, la risposta. No, nel senso, allora lascia stare l'età, che ovviamente essendo molto più giovane avevamo molta, parlo io e altri che ci sono stati, immagino anche te, molta meno esperienza sia di festival, e quindi ci facevamo un po' andare bene quello che c'era. adesso che puoi dire bene, quest'anno vado allo SBAM, quest'anno vado al KNRD, al Punk Rock Holiday, al Bayfest, non so, quest'anno tra l'altro è il primo anno che fanno anche lo Slam Dunk in Italia. Sì. Quindi adesso l'imbarazzo della scelta è limitato semplicemente alle tue forze economiche, perché i biglietti sono diventati stellari. Sì. E di conseguenza comincia a diventare un po' limitata la scelta. Però devo dire che la libertà, come dicevi tu, che c'era una volta magari in quei tipi di festival, è difficile ritrovarla. Quindi sì, sì, siamo un po' nostalgici da quel punto di vista. Sì, sì, bellissimi, no. Comunque, cioè, ho visto una marea di band che mai aver pensato di vedere e ci tornerei domani. Però su certe cose, diciamo, avremmo da ridire. Sì. Sì, esatto. Sì. Soprattutto, principalmente su quelli italiani, purtroppo. Sì, perché purtroppo su quelli italiani. Tu vai all'estero e dici, perché qua funzionano certe cose e da noi no? Esattamente. Però lasciamo le polemiche per un'altra volta, se no andiamo avanti. Ci riprovo da These Are All Our Favorite Songs, detto scandito, ce l'ho fatta. Riguardante, sai che, come dicevamo prima del fuori onda, non so se quella data era effettivamente dell'Independent, quella con Blink, Sum 41, All Time Low o e quant'altro. Può essere che forse mi dimentico, tanti anni. Forse probabilmente sono io che mi ricordo però male. Effettivamente, ricordando la line up, era molto settoriale, esatto, dici pop punk e sì, fine. Quindi probabilmente hai ragione tu, e magari loro ne ho visto uno un anno prima, però uno con i Blink l'ho visto, sono sicuro, perché io all'arena li ho visti due volte. Quello con la sassaiola? Possibile? No, quello me lo sarei ricordato. un brutto momento. Vabbè, adesso sì. Dalla prossima pausa ci documentiamo. Ci documentiamo, vediamo se avevi ragione tu o io. Adesso non mi ricordo, perché ovviamente se ne vedono molto spesso tanti. Sì. Che, esatto. Allora, siete riusciti a fare qualche data all'estero? Al momento no. Ok. Mi sto muovendo un po' io per comunque andare a ripescare vecchi contatti. Perché io vengo comunque da una band mia storica con cui ho suonato 17 anni e con loro abbiamo suonato parecchio all'estero. Quindi, sapendo che a qualche contatto diciamo, piaceva il punk rock, soprattutto in Inghilterra ovviamente, cioè, lì andavano molto di più, sto cercando un po' di valutare qualche data all'estero, nonostante sia parecchio difficile, però vedremo. Il tempo ci dirà. Beh, alla fine, secondo me, se riesci a trovare un attimo quel piccolo aggancio da poter dire suonare fuori o accodarti a qualcuno, qualche band italiana che comunque va fuori, dici magari forse riuscite ad agganciarvi. Per dire, adesso gli Edward in Venice di Pesaro, adesso loro essendo sotto Lockjaw è un po' più facile il passaggio, sì, perché c'è già la Lockjaw che è un po' più nell'underground, un po' più conosciuta, quindi penso che siano adesso al Manchester Punk, sì, Fest, esatto. Quindi è già un po' più attivo, però dai, spero riusciate a suonare anche all'estero, avere qualche piccola soddisfazione anche da quelle parti. Sì, speriamo. Beh, speriamo, esatto. noi ci proviamo, mandiamo richieste o insomma chiediamo più che altro anche alle band, perché è un altro modo per riuscirci per riuscire ad agganciarvi. Speriamo, vedremo come andrà a finire. Va bene. Parlando dei vostri, dimmi. No, ok, pensavo di averti interrotto. No. Ho detto oddio. Parlando di queste vostre canzoni preferite, quali sono effettivamente le vostre canzoni preferite di questo disco? È abbastanza difficile scegliere. Fai tu prima. Io sono abbastanza indeciso. Ok. Perché non è la prima volta che mi viene fatta questa domanda qua e non riesco proprio a decidermi, perché ci sono proprio due pezzi che sia a suonarli sia ad ascoltarli, anche la linea vocale, mi piacciono troppo e non riesco a decidermi. Uno è Wisteria Lane. Ok. E l'altra è Throwback. Ok. E boh, sì. Ah, per quanto riguarda me, in realtà sì, credo che potrei essere anch'io della scuola Wisteria Lane, perché è stato, credo sia il nostro pezzo di punta del disco. Ok. Lasciando comunque vari featuring, vari singoli, però per noi personalmente credo sia il nostro pezzo di punta. Ok, no, quindi, no, sì. Anche perché secondo me rappresenta un po' cioè prende tutte quante quelle mini influenze che buttiamo dentro a tutte le nostre canzoni e le raggruppa in una canzone, mentre magari c'è la canzone quella un po' più verso l'hardcore o la canzone un po' più verso il pop punk, quella lì secondo me ha un po' di tutto, un po' un mix, no? Sì, cioè essendo fatta anche bene a parer mio, insomma dopo giusto, ognuno decide, però onestamente fatta bene, no, esatto. Beh, ci sta a dire cazzo l'abbiamo fatta bene, e che, diciamolo che l'abbiamo fatta bene, quindi ecco. All'interno, come nel disco precedente, non manca il pezzo completamente in italiano. Esatto. Che quello... questo, la volta scorsa mi pare che fosse un discorso di una serata un po' particolare con Sisco, che sarei trovato in una sezione particolare. Esatto. E questo invece è molto attuale, credo. Sì. O cioè, DAD, che è disagio a domicilio, quindi adesso dimmi tu. Esatto, sì, quella parla un po' di, insomma, di il periodo che abbiamo vissuto tutti durante la pandemia, quindi la classica canzone che tutte le band scrivono della pandemia, come quasi doveroso doverla, esatto, fare. E ci sono anche band nate in pandemia, quindi insomma abbiamo voluto dire la nostra per quanto riguarda il nostro disagio che abbiamo provato a stare da soli, chiusi in casa senza vedere nessuno, e, insomma, cercando di descrivere un po' quelle che erano le nostre emozioni. Ok. Ecco, quindi e poi sì, il titolo è nato un po' anche perché, visto che Sisco e Franco fanno lavori con dei bambini. Mm. Sisco scuola, invece Franco al mi sfugge il nome adesso, non mi viene in mente neanche a me, che è un educatore, okay, che lavora con dei ragazzi con dei problemi un po' più seri, diciamo. Okay. Abbiamo attaccato il titolo Dad perché c'era questa sorta appunto di educazione da casa, quindi abbiamo fatto un po' un gioco di parole tra la Dad intesa come educazione da casa e l'acronimo che ci abbiamo tirato fuori come singolo, come titolo. Ok, diciamo. ci sta bene. Siamo praticamente addirittura d'arrivo con gli Splintera, che sono sempre qui con me, non in collegamento ma fisicamente qui con me, quindi vado a chiedervi brevemente qualcosa riguardante prima il pezzo che prima il pezzo che stiamo ascoltando in chiusura, che è Wisteria Lane, che è uno dei vostri preferiti, e mi sono documentato, ma è Wisteria Lane inerente a Desperate Housewives perché io quando ho letto Wisteria Lane ho detto è dire che mi ricorda qualcosa, non che sia un fan e abbia mai visto Desperate Housewives, però sai, sono quelle cose che ti rimangono un po' in testa, no, come un po' le cagate di Beautiful. Sì, esatto. Ho detto magari adesso glielo chiedo quando li avrò qua. No, non c'entra proprio prettamente con Desperate Housewives. Ah, ok, quindi, quindi possiamo togliere... No, è una di quelle canzoni che dici, la chiamo così. Punto. Cioè non ha proprio... Sì, è una delle poche che è nata così ed è rimasta così. Sì, perché questa qua ci aveva già lavorato Sisco a livello vocale, quindi è una delle poche che è arrivato subito già con una linea, un testo... già fatta, che in poche parole è difficile questo da spiegare. non volevo metterti in crisi all'ultimo, no. Proprio vabbè, allora facciamo una cosa, la giriamo da un'altra parte. Vai. Se hai un qualcos'altro intanto ci penso, perché... sì allora mentre tu ci pensi ti chiedo, dato che siamo bene o male verso praticamente addirittura d'arrivo, quindi sì, se ti deve arrivare in frettissima, sì, perché sì, non sì, abbiamo sì, troppo tempo. Dato che, come dicevo, molto spesso ha un po' chiusura, no? Dato che io chiedo diverse cose, curiosità o che mi preparo io, oppure mm-hmm, che saltano fuori durante l'intervista, c'è qualcosa che non vi ho chiesto durante l'intervista, o comunque c'è qualcosa che volete dire tranquillamente senza che non vi ho chiesto, oppure che volete dire? Direi che puoi ricordare i nostri social. Noi comunque ci potete trovare su Facebook, Instagram e anche YouTube sotto Splintera KC. Ok. Giusto? Sì, Splintera, esatto. KC. E di solito fanno loro tutto questo, quindi. E niente, noi siamo attivi più che altro molto su Instagram, però comunque ci possono trovare tranquillamente anche sugli altri siti, insomma. Ok, Se non te, se va bene, non è arrivato, cioè, non è arrivata l'ispirazione. Non è arrivata l'ispirazione. va bene così, perché così vado a chiudere. Io, sì, ragazzi, vi siamo addirittura d'arrivo, come dicevo prima, e lo ridico un'altra volta perché ce la voglio, ce la devo fare. These are all our favorite songs. E stavolta è venuto benissimo. Benissimo. Ragazzi, meglio di noi. Non l'abbiamo mai detto. Ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me in compagnia. E ci rivedremo presto. E buon passo. Facciamo un saluto. Sì, salutiamo gli altri che dovrebbero essere a casa ad ascoltarci. Esatto, in teoria. Quindi Cisco, Mirko e Franco, Francesco Vantini, che comunque salutiamo tanto, non sono potuti essere qua per ovviamente loro motivi. E ringraziamo tutti quanti quelli che ci hanno dato una mano a fare questo disco, grafiche e tutto, il The Rozer per registrazione, per... E basta, a posto. E basta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto, grazie ciao. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao.